semplicemente che somigli alla sua defunta moglie. Ho capito, Don Matteo. Se questo fosse vero, altro che... CQ10, c'è qualcuno all'ascolto? Un momento. Hola, CQ10, c'è qualcuno all'ascolto? CQ10, c'è qualcuno su 10? Ai. Chi è? Avanti con questo AI da mattina presto, cosa ti fa male? Io sono. Ehi, cos'è che ti fa male, bombolia? Aiuto! Hai fatto aia! Niente mi fa male, a te che mi stai dicendo una cosa sana che non faccio più preso nulla. Andiamo. Che è vecchio? Che è stato? Frate, ma non è che c'è di quelli spiccioli, no? Sì, frate, quanto vuoi? La ramo piombo vuoi? Ci sono di rame. Natalia? No, ottone, ne vuoi ottone. Così ma non vuoi da cazzo che studia. Ma pure la vita, dammi un fai. Frate, se ne vuoi frizzelle senza crema, penso che non avevo mangiato una va, come posso andare? Perché ti posso mandare? La protollella, la ripresa una. A chi posso mandare? A nessuno. Anche una pesca, quella che le riempie di crema, buona riso. Perché posso mandare? Cazzo, non ne posso mangiare, cazzo. Ciao frate, portatore, beh, buona l'hai trovata stamattina, yes. Fanno questo coso, un programma là. C'è questa ragazza, c'ha due tette allucinanti. Mamma mia. Ah, veramente una califura di capo, cioè. Proprio così belle non le ho mai visto. Ce le ha grandi, ma proprio belle, eh. Beh. Già avrà una 20-25 anni, ma sogno a lui. Un moglio, no. Un bel Natali, un bel, proprio da fuori da normale. Da primato, da. Sì, chi si entra prima subito? No, è che vedi in chi va a fare con teggi, no? Mi chiede a Durori, mi cos'è che fai? No, fa niente, guaggio. Eola, bella gà. Intendi, Pompa, cazzo! Quando passi, e passi così, atta un poco, da buccia si affascia. Bomboli, 9,40! Se guarda che ti faccio pagare lo smitter! Addirittura! Se vuoi... Ecco qua! Se vuoi, avanca, se muccaggi, poi vediamo! Vada bravo! Scappa! Fino a 9,40 arriva il tuo! No, appena arriva a 9,60! Cavolo! Dopo proviamo, va! E nelle bande in su c'è qualcuno che sta facendo di ex! Ho messo a manetta a catta, a vedere se mi ha inteso la Russia! Mira, Natalia, poi da WhatsApp! Ehi! Ha detto pure spassiva. Che cosa vuol dire che c'è spassiva? Spassiva, in russo. Aspetta un attimo che devo guardare una cosa, Bombolo. Curludone. Vuol dire? Bello, così è. Mamma, le turchi. Cosa ho visto? Le mie fulgide pupille la mattina presto. Che cosa allucinante, va. Non l'ho vista, ne ha un bel. Una bella ragazza anche. Bella. Con la coda di cavallo, l'avrei presa ragazza per la coda. Cloppete. Ah! Qua. Esci a vedere, va. Un attimino. Franco di Magliatica. Mimì, quella lì, zio Mimì, ha detto che siamo una greppa di maniaci. Un buio con come? Vabbè, cosa detta è? A te l'immagini questa Alice, a te l'immagini questo pompugno. Tanto guarda WhatsApp. Oh! Ora di gabbo, allucinante. Fuori di gabbo, bro. Appa! Appa è da Natali, come sta la situazione in Kibi? Ora! Natalino! Oh, dimmi! Appa è da Osmith, va! Fai! 1, 2, 3, prova! Ora! La mazza che buona e callette! Yes, yes! Che chiamo, avanti! Ola! Ola! Avanti, ora, avanti! Mi senti, mi senti? Cappa che ti sento, avanti! Qui la Sardegna che chiama! Cappa, cappa, Isola Canaria, Isola Canaria! Cappa, Isola Canaria, qui Antonio La Sassa di Sardegna! Avanti! Bove Sardegna, bove! Cappa, dammi un rapporto di segnale, Isola delle Canarie! 960 Radio 5, Radio 5. Grazie, a te Luca, 960 arrivo. A te. Attento Isola Canarie, vamos a ver se va escuchando la estación 165 Mike November Oscar. Dalla Sardegna che va chiamando, breco breco. Sono in culo culo a te, lo ci scende in due, l'ho fatto il bidone. Già lo so che è un bidone già. Vai che ti furro di Gianni la canna, vai, cosa canali Mi avrò che va a che sei benito, 960 arrivi, non sei contento? Ah, cosa 960? Saranno per 10. Ciao Benny, buongiorno, buongiorno a tutti. Qua, quanto ti arrivo? Ma stai fischiando, Natali, non mi piace. E ha speso troppo alto, forse. Dove vuoi andare, Natali? Va bene adesso. Prova. 1, 2, 3, vai. Sì, 9 più 10, sì. Ah, guarda, buongiorno a tutti e buona domenica, comunque, va. Sì. Aspetta, abbassiamo tutto. Va, sei 9, quasi 9, va, neanche, 8 e mezzo. Cappa, cappa. Forse io ho qualche cosa di più a casa tua, vero? Ma io Beni? Sì, l'hai passato. Abbiamo parlato in due, sono passato io. Ho detto io sono Santiago 9, no? No, tu sei 9, quasi 9, anche tu. Antonio? Antonio Santiago 7. Attenzione Benito, mi senti? Sì, Santiago 7, Radio 5. Cappa, c'è una zona un po' negativa tu. Anche ottava lui, non è assassino. Cappa, vabbè, ma dipende anche dalle condizioni sue. C'è un po' di negatività in quella zona, non ti ho mai compreso qualcosa. Però da Gigi arrivo forte, non ho capito. E lui mi sembra sia dietro Gigi, boh, qualcosa del genere. Io sono dietro Gigi e ho una villetta a 3 piani che mi copre tutta la casa. E tu vuoi un po' nel radio, e qua c'è Santiago 9, bene. Non posso mettere sempre l'antenna. Comunque, meglio di niente. Ma l'importante è ci ascoltiamo, ma lo già di Nafuti e lui. Sono finiti i tempi di Vaffutta. Quando ci sentiamo io arrivo da tutte le parti, certo non ho dentro città il segnale che avevo prima, ma non me ne ha fatto nulla, l'importante mi ascoltino da tutte le parti, poi. Appunto, quello che dico, l'importante è farti sentire, poi, è abbastanza benefico. Io arrivo, tutti i dubbi parlano che arrivo senza segnale, no? C'è un mio segnale, anche abbastanza, ma non mi posso lamentare da qua. E sono ancora in condizioni precarie. D'estate facciamo i miglioramenti. Dai, vi saluto ragazzi che devo andare a... che ho ordinato un catering oggi e devo andare a ritirarmelo a Sassari. Oggi si mangia al sacco, ho ordinato tutto lì a 140 grammi. E io ero babonami. Sì, sì, sì, sì. Papà, già ci ho mangiato anche io un bel volte. Oh, vabbè. Dai, ci aggiorniamo dopo. Buona domenica a tutti, ciao ciao, vai Natali. Ciao ciao Claudio, buon proseguo. A Benito oggi lo sento basso, boh. Io a Natali ne ho chiesto l'antenna con la carrucola, non ha abbassato perché c'era la e si è basso, ma forse ne tende basso. Lo sento basso perché ho anche l'antenna messa male. E io lo stesso mi fra, anche io ero quello che ti dico, l'antenna basso e sono basso. Buongiorno Franco. Ciao Benito, dopo tanto, ben ascoltato. Caspita, fatemi dire, mi ascolto basso, e si è basso, lo vedo da un anno. Ok, dai. Chi è che c'era in questo canale? C'era Luca, Bombolino, io, Fra. E purtroppo ancora non l'ho piazzata l'antenna e ce l'ho messa male, diciamo così. Capo, ma già vai bene anche tu, arrivi benissimo. Ok. Ciao anche a Bombolo, ciao Luca e anche a te. Niente, e allora? Come mai a casa? Ah, oggi è domenica, giusto, c'hai ragione. Si aprirà la Puri, sì? Oh, vedi? Fra, abbiamo cambiato tutto, però sempre là. Buon con l'altro che stanno qua. Capo. Bombolo! Ehi, avanti, dimmi! E allora, com'è che c'è? Com'è che c'è? Gappa, gappa, ehi, cosa c'è? Sta vedendo i nomi, mi. Capo, tanto passare un po' di tempo, ora ci vuoi fare. Piano piano, niente, io non sono diventato adesso. Ho acceso il mio sentito. Gappa, come ti arrivo a sorcio? Sì, arriva un segnale di 8, radio 5. Gappa, gappa. Ah, te la lì. Cappa, io... Se ci sono gli occhi. Io vi devo lasciare, devo andare in cucina. Ah, ci sentiamo alle prossime. Cappa, ciao, te la lì. Buona cucina, allora, con tutto ci sentiamo. Avanti, a tu. Cappa, ciao, Natali, ce la risentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Luca, non c'è Luca? Luca? Luca, ma sì, si furugge di la bandita. Sicuramente, sicuramente. Oh, aspetta che... Guarda a vedere, ha aumentato qua. No, 6-8, modulati diciamo 8-5, dai. Gappa, gappa, adesso sto dando la massima potenza proprio. Gappa, 5 punti è aumentato. No, è poco, no. Non è poco, no. Gappa, gappa, e tu bene, mi senti meglio lì a Ottapa? Benito si è allontanato e gli hanno bruciato la porta. Gappa, gappa, io a me lo sto facendo andare un po', c'è problema questa cosa. Gappa, fai bene, fallo andare. Ma io lì, ce l'avevo acceso, ce l'avevo, perché l'ho acceso stamattina. Io sono uscito e adesso ho visto che era già pronto per usare. Gappa, gappa. Passa che anche tu non sotto casa, guai. Guarda, guarda, faccio un po' il ritmo, saluto a tutti, vado a tagliare. Ciao, ciao, buona domenica. Grande puffo, dove dovrebbe essere andato? No, ce la risentiamo alle prossimine. Benito, Sei andato via, ciao Luca. Buongiorno Franco, dai, ce l'ho anch'io, ce l'ho prima, dai. Ce l'ho prima, mi sono guardato un film bello, me l'hanno mandato tramite Instagram. Praticamente di questa carcere ci sono 12 carcerati, di cui uno sassarese, che fa la sassarese, allucinante. Molto bello, molto bello. E dove l'hai visto? Me l'hanno mandato tramite Instagram. Ah, non l'avrei voluto vedere, curiosità. Mazzadini varia! Uia! Questo che si lamenta, però con il sassarese, pure la riga, buva. Bello, bello quel film. Bello sì. Uia lu! Ehi, Afra, guarda! Più sopra di te c'è un'antenna in quel palazzo alto. Di chi è quella? Bandiere. Però quello non è vista la mia antenna. No, lo socialista adesso. La tua non me ne sono accorto. Quella lì l'ho vista da tanto tempo fa, che c'è sempre. Lasciamo la prendere, ma detto che la lascia lì, che gli serve. E di tira. Quando c'è pratica già arriva la zia Rampi. Lasciamo la lampa, a 50 euro gli do, me la dà a me. Ma la male me la smonto. Capo. Ma non modula più quello. No, io già la lì. Sì, secondo quanti anni è se togliere quella a Muganina va è un casino. No, cosa ce l'avrà quella lì? Cosa ce l'avrà? 5 anni, 6 anni, non di più. Se la fatta bene dovrebbe uscire perfetta. Allora, e vi sento in Italia, mia Bacconi. Ho visto. Ma come data sono a Sorso? La matta di Nivaria. Ma te chi verrà visiti a vedo, eh? Già lo so, già. Sono ancora aumentato, sono dalle parti tue lì, Franco. Sì, 6, 8 e 5. Già va bene. Va bene. Va bene. Cosa potenza? Io già da tempo a fare, siamo a tre passi. Madonna di ricordi, che ma pagata, mi avete chiamato che mi hanno maneggiato. Ora. Luca mi ha chiamato. Chiara, frate, così di Pagamarro. C'è freschetto, già no, è bella, ma è fresca. Già lo so, già. Puzzinoso di vecchia, nega. Cazzo, tu che vai dentro una cosa, ma una cosa allucinante. A parte che c'è una cosa, Ollo. Vedete, ti ramando. Ma con il sorso ci sei ancora? Sì, e ci sono. Ah, capo, avete smutto. Sto facendo un lavoretto qua, sto facendo, dai. Man mano rispondo, poi riprendo. Appagappa. Qui si spegnetemi. Viagare. Tutti i birichini. Oh, sento Luca. Ciao Franco. Ciao Luca. Vi stavo ascoltando con la radiolina che era un terrazzo facendo. Vi stavo ascoltando con la radiolina KK. Ma lì ci riceve molto bassi. Cosa? Vai. Stavo cercando il tuo numero, non lo trovo più. Per mandarti la registrazione con la radiolina come mi arrivi tu. Con l'X-Data 808. Così, senza antenna. Però non trovo il numero, perché ogni volta che ne memorizzo qualcuno me ne cancella altro questo cazzo di telefono. E come mai? Ma cosa ne ha? Sei i numeri che ho perso? Vabbè, ho cambiato il telefono, però chi su? Vado a cercare i numeri, infatti agita, poi li mando la registrazione a Franco, perché poi sono entrato in sala e ti stavo mandando la registrazione di come arrivavi tu senza antenna, amico, la radiolina senza antenna. Però non mi ritrovavo il numero. E dopo te lo mando. Rimandamelo, cazzo. Ma neanche, mi pare, ma con questo di Antonio. Perché te l'ho detto, ogni volta che memorizzo qualche numero me ne cancella altri. Eppure ce n'è spazio, cosa ne so? Magari anche a me è successo che, non in questo telefono, nell'altro, che memorizzavo i numeri, poi andavo a cercarlo e non lo trovavo più. Mi pariani. E si cancellavano. Esatto. Secondo me sono gli iPhone che fanno, perché prima non ce l'avevo l'iPhone, eppure me li teneva l'altro telefono. Cazzo, l'ha gibugliato l'iPhone, comodo, bello, con tutti i suoi viaggi, ma porca miseria. Ah, la capisci. L'ho dentro il cassetto io l'iPhone, perché mi faceva quel difetto. Certo, propagazione c'è oggi comunque. Io sto parlando con un Lafayette Away, non ho un baracchino, esce, questo qua esce con 2 watt e mezzo neanche, sicché non pretendete chissà che cosa, l'antenna è sempre la mia, quella famosa, è così che sto uscendo in queste condizioni. La modulazione della voce è questa, perché ho purtroppo la bocca storta dopo il vaccino, è così che vi dovete accontentare. Cos'è? Dopo il vaccino cosa hai fatto? Ero ricoverato quasi un mese, purtroppo, mi ha pigliato una paralisi, mi ha fatto. Oh cavolo! Aspetta, te l'ha fatto dopo il vaccino? Sì, purtroppo. Dopo tempo secondo. Che cavolo. E lì cosa ti hanno detto? Che era proprio prendere il vaccino oppure altre cose? Ah, non te ne dici, no. Non te ne dici. Ma siccome è successo tantissimo di quella gente che ho io via, che perché mi sono informato, è successo a tantissima gente, però la gente ha preso peggio di me. A me mi è andato a vedere, diciamo, perché mi ha bloccato la parte sinistra, che forse è risolvibile col tempo, non si sa quanto, però, oppure permanente. Ti dà la pensione? Ho fatto già la domanda, vabbè, per tutti i problemi della schiena e tutto. Gli serve un'ulteriore visita, dall'ortopedico per appunto dimostrare della schiena e basta. Infatti adesso al 27 c'ho l'ultimo appuntamento dall'ortopedico e poi riportare questo foglio alla corsa. Perché la visita l'ho già fatta, la seconda tra l'altro, non la prima, ho visto la seconda. Pazienza, piano piano, non ce la faccio. Aspetta, mi spiace. Io ho fatto il terzo il 13, giovedì ho fatto il terzo, però diciamo che un po' mal di occia mi ha fatto e niente, poi sto bene. Il tempo poi sarà a decidere nei fra. Sarà il tempo a decidere come trattarci. Perché purtroppo è così. E che ci vuoi fare? No, c'è una radiolina che ho preso questa settimana e vi ascolto, a parte che fa 0,30, capito, la banda aerea anche. E così che sono in terrazzo, me la porto in terrazzo e vi ascolto lì, ascolto tutte le HF, sì che non ho bisogno, capito, di cadere in camera. È veramente, veramente comoda e bella perché funziona veramente benissimo. Guarda, baciata, ti ufilo e biglia, tutto quanto biglia. Capo, è buono, buono. Se abbiamo fatto tutte quelle, tipo HF, va bene, se l'ho presa. Sì, guarda che te l'ho mandato. Sì, adesso ci guardo, ho sentito il telefono. Avanti Antonio. Capo, piano piano, va. Sì, la gente ha iniziato questa cosa, metto l'altra parecchio un attimo. Ecco qua, Franco, mi senti? Certo che ti sento. Dai, diminuiamo un po' i nomi, se no, uiuia. Cosa va? Ti consuma un po' di luce più. No. Uiuiui. Cazzo, erano tanti, Salvita, vecchio. Caffa, dopo mi ponga a fare un po' di pulizia, mi ponga a fare con l'aspirapolvere, piano piano. Non fare per parlare a nessuno, Chi è che ha frusciato? Il telefono? Sì, il mio. Caffa, vedi, Luca, ci sei? Luca del Monte, va. Luca del Monte non vuoi più. Ehi, chi è avanti? Con quei nomi mi si arrivendi 8 dai fra, una cosa del genere. 8 nuovi dai, modulati, con questo apparecchio qua. Hola. Luca. Sì, lo conosco quello lì, l'ho visto, quello lì fa 0,30. E quando eri a Buru, a parte la radio normale, la musica normale, hai visto i video che gli ho mandati? No, è sacco comoda, capito, ti racconti dove vuoi, ce ne sono più superiori addirittura di questa, capito? Questa è una via di mezzo, ma va benissimo. Capo, sì. Sì, ho visto il video anche, ho visto, mi dispiace, tanti tanta costruire. Adesso vediamo il tempo. Sono con l'idio, creme, a go-go. Vediamo cosa dice il tempo. Speriamo in bene, che sia giusto tutto. Chieva. E poi, rispetto, avevo venduto tutto perché era un periodo che non veniva nessuno. La sera entravano uno, due, così, entro 5 minuti da Boibo. E che dico, ma cosa me la tenga fatta questa roba che non vuoi più nessuno? Ma nessuno, in tutto il giorno. Ma con il 23 me la viene nessuno. E di cosa me ne dico? Cioè, ha finito, questa roba andano a farmi da lunga che non vuoi più nessuno. Ogni tanto vedi com'è, a volte entrano, a volte non entra nessuno. Anche io ero un bel assente perché facevo altre cose, dai, non avevo a volte tempo di stare lì dietro la radio, anche se ne ho da buttare tempo, però. È così, a periodi proprio spariscono tutti. A periodi, infatti, poi ho messo questo baracchinetto così e ho visto che anche tu non entra la sera. Va. Un attimo mi stanno chiamando, dai, riprendete a tu. Va bene, dai, Luca, ci sentiamo, dai. Avanti a tu, Antonio deve girare la matita. La gara contendo una cosa. Buongiorno a tu, Emo. Ehi, avanti! Ciao Antonio, buongiorno! Ebbene, allora già, come va? Fa che suore Antonio, fa che suore! Buongiorno a tutti i numeri! Ehi, ciao, ebbene, allora! Se qualcuno sì, ciao Antonio! Ciao! Ma siamo un po' qui, no, casi, no? Oioia! Cosa vuoi passare Antonio? Chi è Tino? Miglia, buongiorno. Ciao Tino, dove sei? Il QTH piccolino? Allora, laboratorio. Oh, sono rientrato, tiro muscolo. Mi sto preparando l'ora del pranzo. C'ho una fame che sembrano quattro. Come invece creccia? Tino! Ufficio! Come va Lu? Sta a posto? E domani c'ho l'altro zampone. Gare! Andami, tanti auguri allora, dai. Vabbè signori, ciao, sono andato sotto, sto chiudendo, ciao. Ciao Tino, ben sentito. Ciao Tino, ciao caffè. Sua mamma mia, ogni avuto in una ghiaccia, ragazzi, fate una cosa. Perché stai uscendo così Tino? Ciao Fra, sono il piccolino, Sei un po' metallico. Ho toccato la predicazione, guarda un pochino, è passato ora. Adesso è migliorato un po'. Infatti non mi sembra brutto perché il segnale è tutto diverso. Ah, è piccolino 4 watt fra questo. Capo, già va bene. 9. Che vuoi di mio? Una vita da GD che hanno 9,20. Ah, vabbè, a casa, qua è con l'SSB, quello piccolino 4 watt, 23 canali. Capo, va bene. Vabbè, ciao, sto chiudendo, dai, devo uscire da qua. Sentiamo dopo magari a casa. Ciao Tino. Gianni. Ciao Franco, buongiorno. Buongiorno anche a te. Io sono entrato così senza fare ascolto, dai. Scappa. Vabbè. Stavo parlando, poi ci siamo stati zitti per un po'. Vabbè, è quasi ora di mangiare, vabbè, mezzogiorno quindi. Si fa la sponda tra il baracchino e la cucina. Purtroppo è così. C'è anche la padella da girare. Ah no, se no si brucia tutto. Antonio! Eia! Prendi la valigia. Chi è che mi chiama? Io ti chiamo Avantù. Anche tu hai preso una padella? La badia è andendi, piano piano, oggi la badia, la mia signora lo fa. Bene, merda, dai, così sei sgravato da impegni. E io tra poco, lo stesso, mi devo organizzare, se no fermo un giro di banca. Avanti, Fra. Giro di banca. Non sono i vasi più di chi si gozzi, una busca magari, un po' di burugri. Vabbè, giusto per modo di dire, come si usava un tempo, dai. Luca, ci sei? Capa. Ma a Susso arrivi di meglio di me, Gianni. Gianni Lombro questo, quanto a me? No. E quanto arriva lui? Un po' di meno di me. Aspetta che lo faccio venire avanti, vieni Gianni. Eia, allora questo è il Galaxy Uranus con neanche 4 watt a strumento, quindi Scala Xuranus sul col microfono palmare originale, non amplificato. Capo. Guarda, è meno di 7 di segnale. Arriva modulati quasi no, quasi 8 arriva, modulati. Spinge un becco al microfono. Niente, la radio è 5. Un altro arrivi 8. Già va bene, là. Ma a Roma Cassuzzo ci arrivimo. Certo che ci arrivate. A Puglia. Gabba gabba. E poi nelle condizioni che Gianni con la Bura se non se l'ha cambiata. È anche un me che sta arrivando così forte. Ma lui c'ha più posizione migliore di me. Capo, è probabile. Avanti Gianni. Eia, sì, dai, rispetto ad Antonio sono più privilegiato, dai, sono in una buonissima posizione, la Boomer è ancora piazzata, ancora non ho fatto nessun cambiamento, quindi per ora va bene così. Sì, già, è sempre lei, sino ad ora, poi vediamo. E intanto cosa cambia a fare? Arrivi bene qua, a Sassa dovresti arrivare benissimo, anzi molto meglio di me, di arrivare qua, che te lo può fare a cambiarlo, visto che funziona bene. Dai, così, un ospizio, amico. Mettere magari una mezz'onda, una 5 ottavi, boh, un ospizio, niente di... Non è una necessità, capito? È giusto bugamini un ospizio. Se per mettere una mezz'onda è meglio tenere quella. Lì dipende da 5 ottavi, perché ci sono i 5 ottavi che costano anche poco, non è che si trovano. Certo, no, le ho già viste, ne ho già inquadrate un paio. Vabbè, va. Bisogna buccare di nami. Anche se è poca roba, però insomma. Deve capitare il momento giusto, dai. Però per il momento già non mi posso lamentare, anzi. Capo, e i dinami delle tornali. Piano piano. Quando l'antenna è sul tetto. Poi mette l'antenna più scarsa, ma fa sempre. Io so, vabbè, c'ho tutto, c'ho l'asinare a vista, vabbè, c'è Monteoro che mi copre per Alghero, poi dalla parte di Sosso, vabbè, c'è la collinetta di San Camillo, vabbè, comunque. Però dall'altra parte c'ho tutta Sassari a vista, e niente, dai, non ho l'MLM piccolo già ci facciamo sentire, dai. Già lo credo, già lo credo io. E tu più o meno la zona tu? Vicino a Gianni, zona Corso Vicco, così, dai. Però io c'ho un palazzo più basso, se lo sciato un 13 alla stazione guai. Capo, in pratica non siete molto lontani. Se c'hai un sacco di ovvio. Capo, io sono un po' più basso, sono. Senza tenere la barattina che vedi in occhi, forse avrei fatto la fuga di più. Purtroppo un po' così. Però tanto e tutto esco forte. Se voglio io salgo sul tetto qua, metto un palo e mi attacco con la palazzina che c'è là, metto le cose. Allora sì, intende le matracche, perché è più alto il palazzo. Ecco, attaccalo lì allora, guardalo a tutti. Capita di nuga e attacca lì. Gappa, per adesso me l'ho messa qua e via. Tra me e Antonio ci saranno, in linea d'aria ci saranno circa 200 metri, dai. Non è mica tanto. Aspetta che ho sentito una cosa, Avanti Giovanni, buongiorno Giovanni, buon domenica anche a te. In compagnia di Gianni, di Antonio. Avanti Antonio, all'ascolto a Gianni. Giovanni. Pio, purtroppo, non riesco a capire cosa dice. Da dove modula? Non so se lui sente me. Da Platamona. Cappa, saluto il Giovanni da Platamona. Beh, fondici da Pizzona. Stai dicendo a me, Giova. Ehi, capo, dai. Ehi, da qua già mi faccio sentire. Non è che... Ma... senza niente potenza, però già si fa sentire. Ehi, capo. Avanti... Antonio. Capa, io lo saluto, ma non riesco proprio a tirarlo fuori. C'è un po' più di potenza. Gianni, lo senti? Negativo, si muove appena appena l'ago, sento il fruscio sotto, ma non riesco proprio ad ascoltarlo. Completamente negativo. Ehi, capo, dai. E dalla macchina, c'ha un attennino, c'ha. E il problema suo è che non ha un amplificato. E sto usando un microfono originale, sto usando. E se avrebbe un amplificato, perché il segnale è buono, mi arriva quasi 9 a me, mi arriva. E... però non c'è la modulazione. Ho capito, adesso non so se sta parlando, comunque. Vabbè, io proprio zero, completamente zero. Tu Luca, ascolti, avanti. Luca, forse, no, qua è negativo, io sento un fruscio piano piano, ma non riesco a capire cosa dice. Cappa, non lo so, ma lui ci ascolta. Sì, Antonio, ti ascolta a te, ti ascolta anche bene. Allora non lo so, il problema è il suo. Sicuramente, dovrebbe essere il suo, vai. Dovrebbe essere un'antenna buona e più un amplificato a quella radio. Sicuramente, un po' più di spinta pure. Franco, chiedi a Giovanni se mi ascolta. Ehi, ascolti a Gianni, Giovanni, si è allontanato. Ma lei sta mettendo più in zona buona. Ehi, avanti. Ti sento molto basso, ti sento, Giova. Ti sento molto basso. Lui è Antonio che stavi parlando. Aspetta che mando avanti a Gianni. Gianni, avanti. Eia. Ciao Giovanni, buongiorno. Non so se mi ascolti. Io non riesco proprio a sentirti. Vediamo se riesci a sentirmi tu tramite il ponte di Franco. Sentito già. Negativo, riferisci fra. Capo, dai, e lui ti sente bene, forte e chiaro, solo che lui, il problema è suo, dai, che non la porta microfonica, là. Sì, andrà bene, ok, dai, sicuramente magari troverà la soluzione al più presto, dai. certo che troverà la soluzione. Adesso la guida a bussa, dai. La guida? La graviglia a bussa, dai. No, oggi no, la prossima settimana. Occhio, quella lì scappa, non te ne accorgi. Piano piano. Gianni. A proposito di roba da mangiare, dai. Sono già a mezzogiorno e mezza, vado a preparare le polpette, sennò non ne buchiamo... non ne esci nulla oggi, dai. Dai, vi auguro un buon pranzo, buona carica e ci aggiorniamo più tardi, casomai. Ok? Correti da parte mia. Ciao ragazzi, a tutta la volta. Buon pranzo. Ciao Gianni, dai, buon pranzo anche a te, buon tutto. Non me ne l'ho visto, mi era messo di messo. E ce la ascoltiamo le prossime. Avanti Antonio. Cappa, ciao già, ci risentiamo alle prossime. Ciao. Avanti Giova. Cappa Giova, ora ti ho sentito, dove sei? Cappa, ora vai un po' meglio, vai un po' meglio. Cappa, ma stai salendo a Sassari? No, sono fermo, gamba, vai. Ma finalmente adesso un po' meno, ma di poco, Se avessi avuto un buon microfono ti avrei sentito ancora più forte. Però dai, in qualche maniera ti ho sentito. Capo, avanti fra. Capo, cosa avevi tu, Giova? 48. Sì, lo conosco bene, l'ho avuto quello lì. Un baracchino. Caspita, io l'ho avuto negli anni indietro. Con un notificato quello lì è micidiale. Qualcuno dovrebbe controllare che se ne intende quello lì, niente. FM500S, caspita, già avevamo la radio quella lì. Lì se gli metti un amplificato, come radio esce una bomba. Allora, leggermente di quel rem, magari io a te adesso da lì ti ascolto, però se vai fuori, se c'è un po' di quel rem non ti sento più. Ehi, piano piano le cose si fanno. Anche io dall'inizio ero con un'antenna di macchina e da casa. Piano piano, poi mi ho comprato un baracchino nuovo, microfono buono e via. Io sto usando una cosa più sofisticata di un baracchino, va. Capo, io va bene. Tanto per farci sentire, Giova. È un ricevitore, devi solo ascoltare, devi mettere la radio, se uno vuole parlare deve comprare per forza un trasmettitore. Perché sono da fuori? Ma c'è qualcuno in banda laterale? Deve essere tu. C'è qualcuno, ma anche da fuori però. Capo. Lascia vedere. Non si capisce da me, Antu. Non si capisce né in FM né in banda laterale. Boh, è lo cane gioco. E invece c'è propagazione. Sicuramente. Ciao Giovanni, sentiamo, vai. Alle prossime, vieni anch'io a mollo, vai. Ci sentiamo. ciao Giovanni, ciao Antonio, e niente, che altro c'è? Niente, avanti Antonio, ce l'ascoltiamo Antonio, buon pranzo. Ciao, ciao, ce la risentiamo, ciao a tutti. Ciao Antonio, buon pranzo anche a te. Hola. Ehi Luca, Luca. Sì, anzi, mi sto preparando il pranzo. Ehi, va bene, dai, ci sentiamo dopo. Grazie, grazie. Grazie.